Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a il fondatore degli 8 My Village e dei Bud Spencer Blues Explosion, ovvero Adriano Viterbini. Ciao Adriano, benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao e grazie per avermi ospitato. Sono fondatore insieme a tanti altri musicisti, sì, di queste band, esatto. Mi dicevi prima, faccio subito questo momento di verità, che tu sei in macchina in questo momento in autostrada verso Milano, perché questa sera ti esibirai lì, giusto? Esatto, a Seregno, sì. Invece questo venerdì 15 ottobre sarai ospite qua a Bologna al Locomotive Club in un concerto solo con le tue chitarre. Io vorrei partire un po' da qui, nel senso che innanzitutto chiedendoti com'è andata quest'estate, perché so che c'è stato il tour degli 8 My Village e anche a giugno, a fine giugno, una serata con un live con Bombino in duo, e quindi ti chiedo com'è andata l'estate e com'è stato ritornare sul palco. Allora, è stata un'estate artisticamente molto eccitante perché, come dici tu, ho fatto un tour insieme a Bombino, questo chitarrista africano eccezionale, da cui insomma, ho imparato tantissimo e che stimo tanto, e il tour con gli 8 My Village, che è sempre un momento molto emozionante, perché siamo una band imprevedibile che crea lì sul momento le proprie azioni musicali, e quindi ogni concerto era diverso dall'altro, e ho sentito una netta evoluzione rispetto al primo tour che facemmo 2 anni fa, quindi sono molto soddisfatto anche artisticamente di come è andata l'estate musicale. Rispetto anche a un ritorno sul palco dopo un periodo di, lo sappiamo purtroppo ormai, di pandemia, che ha messo di fronte anche tutto il settore della musica a nuove condizioni, anche rispetto solo all'accesso delle serate, della musica dal vivo, dei concerti, e ti chiedo come musicista cosa si prova a suonare di fronte a un pubblico seduto. Ma guarda, io ti dico, forse poi sono un caso un po' abbastanza eccezionale, nel senso che potrei suonare veramente davanti a un pubblico di 2 persone come a un pubblico enorme e provare lo stesso tipo di introspezione in quello che faccio, quindi riesco comunque a chiudermi e allo stesso tempo a cercare, quando c'è l'opportunità, quando si è fortunati, il contatto con il pubblico, quindi l'ho vissuta comunque bene. Diciamo che come musicista mi sono sempre sentito, e probabilmente mi sentirò da qui in avanti, sempre abbastanza in bilico, no, nella mia vita musicale, quindi diciamo che, ecco, questa pandemia artisticamente non mi ha mai scoraggiato, e quindi diciamo che, ecco, insomma, me la so un po' andata bene. A proposito del live che si terrà questo venerdì al Locomotive, dicevamo prima che ti esibirai solo, tra parentesi o comunque tra virgolette, con le tue chitarre. Che cosa si deve aspettare il pubblico da questo live? Vabbè, sì, quando dico solo con le mie chitarre, ma in realtà quando sto con le mie chitarre, quando sto con la musica in generale, proprio la relazione con la musica è bellissima, proprio perché non ti fa mai sentire solo. Pubblico, non so, si deve aspettare sicuramente un concerto diverso rispetto a tutto ciò che ho fatto prima. Secondo me è molto poliedrico, perché utilizzerò tanti strumenti diversi, ognuno con un mondo dentro di sé, che sostanzialmente quando sono nel mio studio cerco di esplorare. Questa volta, ecco, esco dallo studio e porterò nei concerti, al Locomotive, porterò appunto una parte di me, che è quella un po' più che tende ad esplorare i propri strumenti, la propria strumentazione, e a farsi anche un po' guidare da questi strumenti. Ti faccio l'ultima domanda, questa forse un po' più inerente al tuo curriculum lunghissimo e comunque ricchissimo da chitarrista, perché come elencavamo prima sei comunque cofondatore di un sacco di progetti, a partire dal duo con Bombino, dal gruppo degli 8 My Village e i Bud Spencer Blues Explosion. Come si concilia tutto questo all'interno di un'unica persona? Verona. Come te la vivi a livello poi personale, ma anche poi di artistico, rispetto a quello che vai a portare nei vari progetti? Guarda, con estrema naturalezza, nel senso che tutto quello che faccio poi alla fine esprime completamente me stesso, per cui se vuoi sapere chi sono artisticamente, sostanzialmente già l'hai detto, cioè lo trovi facilmente, e quindi mi sento completo così, ecco. Adriano, io ti ringrazio, grazie mille di questa chiacchierata, invito chiaramente tutte e tutti a partecipare poi al tuo concerto di questo venerdì al Locomotive, e speriamo di risentirci presto, grazie. A presto, grazie e buona musica, ciao.